dai guai. Prerogativa che non hai, ti sei perso, no, ti sei perso un po'. Ammetto che sto andando giù, preferisco sempre andarci a sbattere la testa e tu, oh, oh, oh, oh, come l'inferno tu. Com'è difficile resistere, sperare morendo è più facile, almeno per me. Non chiederti perché la regina